Italia in controluce. Buongiorno, buon pomeriggio, oggi è il 28 dicembre, vi parla Daniele Biacchesi su Radio 24, questa è Italia in controluce. Qual è l'affare che sta dietro al gioco d'azzardo in Italia? Chi lo controlla e soprattutto come si esce dalla dipendenza dal gioco? Il reportage di Valeria De Rosa. Il gioco è ancora nell'immaginario collettivo non tanto una dipendenza, una patologia, ma un vizio, un comportamento in qualche modo anche divertente, anche sì, uno svago, no? Finché ci si rende conto che questo può diventare davvero un problema. A volte il gioco può diventare un problema. La dottoressa Fulvia Prevera ci tiene a sottolineare che per il momento il fenomeno è limitato a una fetta di popolazione che va dall'1 al 3%, ma con altrettanta precisione fa presente che sono davvero pochi gli studi che analizzano la patologia del gioco d'azzardo e comunque a quella percentuale sfuggono tutti quelli che non riescono, non vogliono, non possono chiedere aiuto a gruppi di sostegno, pubblici o privati che siano. Una realtà ancora più vera per le donne, perché nell'immaginario il gioco d'azzardo è un passatempo prettamente maschile. Falso. Per le donne questo tipo di comportamento, che per gli uomini magari viene più fuori, è un comportamento di sfida, vado alla sala corse, vado al casinò, ma anche vado alle macchinette e mi spendo il mio budget che di solito tengo in mano io, per le donne è un problema questo monte. Le donne spesso hanno un budget limitato, se sono casalinghe hanno il budget che serve per gestire la famiglia, se lavorano hanno un loro stipendio che però è spesso comunque vincolato molto più sotto il mirino, come dire, della gestione da parte del marito di quanto non sia il contrario. Quindi il gioco è proprio qualcosa di sommerso e rimane tale perché quando il problema viene fuori in maniera devastante, proprio perché non si riesce più a tirare avanti, difficilmente una donna è accompagnata a un servizio, per esempio, di terapia, cura, riabilitazione, da un marito, da un fidanzato, da un padre, perché c'è molta meno collaborazione. Si scopre così che c'è un mondo parallelo fatto di sotterfugi, vergogne e solitudine in cui tante donne restano prigioniere di un'illusione, un fenomeno che negli ultimi anni ha visto numeri sempre in crescita. Per questo, e proprio perché aiutare le donne è più difficile, a Milano è nato il primo gruppo di ascolto solo femminile, un progetto dell'associazione Azzardo e Nuove Dipendenze. Daniela Capitanucci è la presidente. Se prima la proporzione fra giocatori che chiedevano aiuto ed erano maschi era una donna e 5 maschi, adesso arriviamo a una donna su 3 maschi. Non siamo rimasti molto sorpresi per una ragione, perché il gioco d'azzardo legale in Italia è un prodotto di consumo, per cui è venduto come si vende una lavatrice, un'autovettura, eccetera, e quindi proprio perché è un prodotto ci siamo resi conto che via via nel tempo sono stati pensati, creati, costruiti dei prodotti che potevano essere particolarmente appetibili al pubblico femminile. Prodotti creati ad hoc come il bingo, il gratta e vinci, anche le 3 estrazioni settimanali del Super Enalotto hanno un pubblico naturale di casalinghe e pensionate. C'è comunque un'attesa di vincita, un'attesa di guadagno. Il tipico femminile è un po' utilizzare il gioco come una sorta di fuga, di evasione da quotidianità che magari sono difficoltose. Il gioco, e parliamo solo di quello legale, che sia fuga dalla realtà o sfida della sorte, alimenta un giro d'affari notevole. I consumi complessivi degli italiani, compreso affitto, bollette e necessità quotidiane in genere, ammontano 800 miliardi, euro più, euro meno. Il gioco nel 2009 ha superato quota 54 miliardi, di questi scarsi 9 sono finiti nelle casse dello Stato. Cosa ne è di tutto il resto? Maurizio Fiasco, sociologo e consulente della Commissione Antiusura, conosce bene l'argomento. Dal 2003 in poi si sono introdotti dei tipi di gioco che hanno entrate fiscali decrescenti a fronte di una spesa crescente. Non è un problema di costo, è un problema di gioco a piramide della gestione del gioco stesso. Per entrare nel gioco, io che sono un concessionario, che ho un patrimonio e un capitale sociale molto esiguo, devo prendere dei soldi in prestito per dare le cauzioni, per dare le fideiussioni e poi per strutturare tutto il giro. Questo cosa comporta? Comporta che l'interesse bancario che i concessionari pagano alle banche che gli hanno prestati i soldi sono molto alti

un figlio e non c'erano mai riusciti. Allora, così è stata la bella sorpresa, e un po' poeticamente abbiamo detto, ecco, anche nel cemento, no, può nascere un fiore, ecco, come dire, anche in queste situazioni che sono gravi e che così succedono nei nostri porti italiani, non succedono nei paesi del quarto o quinto mondo, così c'è ancora un segno di speranza, c'è ancora la possibilità di sorridere. La seconda edizione di Italia in Controluce sul mio blog Daniele Biacchessi lo trovate su radio24.it, dove potete leggervi gli ultimi post, oppure su Facebook Radio 24 Italia in Controluce, su Twitter in Controluce, con brevi, brevissimi messaggi, dove potete trovare soprattutto i programmi di Italia in Controluce, e la mail controluce@radio24.it, dove potete lasciarci le vostre idee, anche i vostri rilievi. La mia voce torna domani alle 6.30 su Radio 24.